Cominciamo di nuovo il nostro compito pomeridiano e vorrei dire prima che da domani mattina facciamo così, cominciamo già un quarto d'ora prima alle 8:03 e il professore Scialle è così gentile di fare due le conferenze la mattina, naturalmente interrotto da un intervallo. E per la ragione perché non soltanto il professore Turner ed io vogliamo andare a questi funerali, ma anche i giovani vecchi scolari dell'Istituto di Vienna, questi il dottor Malicek, il dottor Rickman e il dottor Rudolf vogliono andare lì e non vogliono perdere anche la seconda conferenza di professor Schaller, così è prevista per domani pomeriggio soltanto la discussione. Allora, che tutti sanno, vogliamo cominciare alle 8:03, o almeno un quarto, e ringrazio molto il professor Scialla che è così gentile di fare questo compito duro in una mattinata, ma in ogni modo lui sarebbe anche nell'altro modo qui la mattina e forse è più libero pomeriggio se la discussione non dura così lungo. Adesso alla parola al professor Manzelli. Probabilmente chi di voi mi conosce già, mi riferisco specialmente a degli studenti italiani, dei giovani italiani, sarà rimasto sorpreso che io, in un seminario dedicato a Federico II, prendessi la parola per parlare della scuola poetica siciliana, della poesia siciliana, presso alla corte di Federico II. In realtà, chi vi parla è un medievalista, non uno storico della letteratura italiana. E in apparenza, sottolineo, in apparenza, i problemi della scuola poetica siciliana sono problemi filologici e letterari. Ma, d'altra parte, dico subito che la scuola poetica siciliana, nel primo nascere della nostra letteratura volgare, rappresenta non un fatto semplicemente letterario, ma un fatto storico di eccezionale importanza. Come vedremo, i problemi che i personaggi che Federico II e i personaggi intorno a lui hanno affrontato e cercato di risolvere sono i problemi storici di tutta la letteratura e di tutta la lingua italiana. Oggi noi ci troviamo ancora, in parte, ma ancora di fronte a problemi che si era già in qualche modo posta la curia siciliana, la curia di Federico II. Non so quanti di voi leggono romanzieri italiani, ma romanzieri italiani, come per esempio un Pasolini, o altri ancora, come un Palazzeschi per il Toscano, o un Verga per l'Italo-Siciliano, si sono posti problemi di espressione linguistica e letteraria analoghi con le trasformazioni del tempo e dello spazio, analoghi a quelli di Federico II e di coloro che gli erano intorno. Quindi non vi aspettate da me una valutazione estetica e letteraria, non una valutazione in termini di poesia e non poesia. Non è mio compito oggi. Potremo forse parlarne nella discussione, perché anche questo può essere interessante. Ma il mio compito questa sera è di porci il problema di che cosa significa nel piano della cultura italiana della prima metà del 200 l'opera letteraria che si è sviluppata in tempi che potremo determinare e determineremo intorno a Federico II, con la partecipazione molto probabile, al limite della certezza, dello stesso Federico II, certamente di due dei suoi figli, certamente di Pietro della Vigna, certamente di altri personaggi della Puglia di Federico stesso. E di problemi storici, non estetici, che ci si pongono, sono di due tipi. Primo, come hanno risolto un problema linguistico. L'Italia meridionale, se ne parlava proprio stamani col professor Massarese Fardella, l'Italia meridionale non ha un solo dialetto, ma vari dialetti, almeno tre fondamentali, il siciliano, il pugliese, il napoletano, con le varie, naturalmente, sottospecie e le varie manifestazioni locali e particolari. Nella stessa Napoli esistono almeno due dialetti, l'uno il più diffuso, l'altro moribondo se non morto, l'ultimo colpo gliel'ha dato il colera l'anno scorso, ma sì, è il dialetto di una parte della popolazione che si chiamava, come si chiama, i Luciani, che coltivavano le cozze e ormai non le coltivano più e si sono dispersi, ma è un discorso diverso. Quindi in questa società, in questo paese, in questo regno di Sicilia, pluridialettale, che cosa bisognava parlare? Che cosa bisognava scrivere per essere capiti dalla maggior parte degli abitanti? Punto primo. Quindi problema linguistico, di espressione linguistica. Secondo punto. Chi erano questi poeti? Qual era la loro realtà sociale? Da dove, da quali classi della popolazione e da quale grado di cultura venivano? Che è il secondo problema, legato al primo. In realtà, già i contemporanei si sono posti il problema del valore culturale di questa Puglia. Se voi prendete uno dei più illeggibili poemi del nostro 200, il poema di Orfino da Lodi sui doveri del podestà, vi troverete una esaltazione della curia di Federico, la curia dove si rende giustizia, la curia dove gli uomini sono di cultura elevata, la curia dove tutto procede amministrativamente e culturalmente nel migliore dei modi possibili. Orfino era partecipe, sia pure a grado minore, di questa curia, ma noi abbiamo una testimonianza anche più importante. Una testimonianza che ci viene su due piani, da Dante, che, come voi ricorderete, non è di molto di molti anni più tardo di Federico II. Ebbene, la testimonianza che Dante ci dà della Puglia, del mondo intorno a Federico II, è indicata da una espressione che riguarda i due personaggi più importanti, l'imperator Fridericus et Benegentus Eius Manfredus, ma che in fondo si estende a tutti coloro che gli erano intorno. Ebbene, come vengono designati questi due personaggi? Umana secuti, brutalia devinante, cioè uomini che hanno tenuto davanti agli occhi, diremmo nell'italiano di oggi, i valori della civiltà, dell'umanità, e che hanno disdegnato ciò che è bestiale. Ebbene, tra questi valori di civiltà, il più importante e il più significativo è appunto il fatto di avere elaborato una lingua, un'arte che non è rivolta a questo o a quel particolare mondo dialettale. Il passo di Dante di cui noi parliamo è del De Vulgari Eloquentia, ma di avere voluto affrontare e porre in rilievo dei valori comuni. Perché Dante, nel De Vulgari Eloquentia, riprende in pieno il problema di Federico II, riprende in pieno il problema di questi poeti siciliani. L'Italia, riferendolo non più al regno di Sicilia, ma allargandolo a tutta l'Italia. L'Italia è una pluralità di dialetti. Ma quale di questi dialetti è valido? Quale di questi dialetti può diventare il linguaggio della comunità linguistica italiana? E la risposta di Dante è che nessun dialetto, ma bisogna elaborare una forma espressiva, una lingua che abbia quanto c'è di comune in tutti i dialetti, liberandosi di quello che vi è di volgare, che vi è di plebeo, per conservare quanto vi è di più bello e di più essenziale. Se noi ci poniamo dall'angolo di visuale di Dante, da questo consenso di Dante, riusciremo anche, se non mi inganno, ma possiamo discuterne, a capire il senso programmatico della scuola poetica siciliana. Cioè, questo proposito di elaborare un linguaggio che sia valido non per questa o quella parte del paese, ma che fosse intelligibile a tutti. A questo punto una domanda è inevitabile. Professore, lei ci parla di scuola poetica, ci parla di Federico e di uomini intorno a lui, ma Federico stesso, che cosa, quale atteggiamento aveva, per quello che ci risulta, di fronte all'italiano? Le testimonianze potrebbero essere parecchie, io mi limito ad una molto vivace, e anche molto nota, che è quella di Fra Salimbeni, e poi alla testimonianza delle sue probabili composizioni. Che Federico II si dilettasse di composizioni poetiche, di canzoni, che mi componesse e mi ascoltasse volentieri. Fra Salimbene ce lo dice nella maniera la più chiara e la più indubitabile, che egli componeva canciones et cantilenas vulgares, che componeva canzoni e cantilene, ero in volgare, e che amava ascoltare quella degli altri. Quindi su questo punto non c'è dubbio. Federico II componeva e conosceva l'italiano in maniera tale da poetare in italiano. Su questo punto è la cosa è indubbia. In volgare sono attribuite a un Federicus Rex. E i filologi discutono che questo Federicus Rex si debba intendere Federico II, che in Sicilia era Rex, ma dato per i siciliani Federico era prima di tutto Rex. I nostri colleghi storici siciliani, se potessero, chiamerebbero Federico dei Disveglia, vero, Federico di Hohenstaufen, Federico I re di Sicilia. Tant'è vero che esiste una bellissima e mai chiusa polemica su Federico d'Aragona, se sia secondo o terzo re di Sicilia. Quindi i siciliani certamente chiamavano Federico Federicus Rex. Quindi non è del tutto, diciamo così, impossibile che queste canzoni siano di Federico. Naturalmente, quando si tratta di personaggi così grandi, i filologi diventano difficili, vorrebbero delle certezze assolute. Vi devo dire che io mi sono un po' interessato della questione, pur non essendo di professione un filologo. Personalmente tendo a credere che le poesie che vengono attribuite a Federico II, e specialmente quella che poi è la più interessante e possiamo dire anche la più bella, la canzone della donna che saluta l'amante che parte per la crociata, è vero, questa canzone specialmente potrebbe essere, è di quelle che hanno una maggiore probabilità di essere di Federico II. Certamente ne ha composte. Ma se mai ci fosse bisogno di conferma, dovremmo dire che questa conferma ci viene da almeno uno dei suoi figli, Enzo. Badate, una piccola, lo dico agli italiani evidentemente, una piccola osservazione. Noi italiani siamo ormai abituati a pensare ad un Enzo che sia il nostro solito Enzo, che si adopera comunemente come nome italiano. Scusatemi, l'Enzo di Hohenstaufen è un nome tedesco italianizzato ed è Heinz, diminutivo di Enrico. Quindi scusatemi, è vero, voi lo sapete benissimo, ma di solito noi italiani non ci pensiamo. Ebbene, Heinz o Enzo che sia, poeta certamente in italiano, e abbiamo delle poesie, diciamo, di buona fattura. Federico di Antiochia, se non sono di Federico le poesie che sono giunte fino a noi, certamente ha poetato anche in volgare. Ma hanno poetato in volgare Pier della Vigna, al quale noi dobbiamo un fatto più importante di quello che non sembri. Lo dico, questo lo dico ai tedeschi, perché gli italiani lo sanno bene. Pier della Vigna ha usato e introdotto energicamente uno dei versi che poi in italiano era più destinato ad avere fortuna. Il verso endecasillabo, cioè il verso di 11 sillabe. Ebbene, Pier della Vigna lo adopera con notevole maestria e ha certamente spinto e iniziato la sua fortuna. Ma non dobbiamo dimenticare che l'iniziatore, cioè quello del quale noi abbiamo le composizioni le più antiche, è uno dei notai, Jacopo D'Alentini, che comincia a poetare e a dare la sua attività intorno agli anni 33-34. E voi allora capite un fatto che a me sembra vada in qualche modo sottolineato, vale a dire la scuola poetica siciliana è la manifestazione anche di una situazione storica di particolare interesse. È nel momento in cui c'è ormai stata la pace di San Germano, i rapporti tra il papato e l'impero sono buoni, Federico II riesce a tenere testa ai comuni e ben presto passerà al contrattacco e vincerà Milano a Corte Nuova. Siamo cioè in uno dei momenti, vorremmo dire, di maggiore splendore, di maggiore anche energia e attività del governo di Federico II. Abbiamo quindi un momento favorevole a questa libera esplicazione dell'arte poetica. Ma dicevamo, dopo questo, diciamo, quadro d'insieme, dicevamo lingua usata. Se io vi leggerò, come faranno molto, qualche breve esempio di poesia della scuola poetica siciliana, chi di voi conosce l'italiano dirà: ma il siciliano dov'è? Se io vi leggo proprio la prima di queste, la più quasi sicuramente poesia di Federico II, questo commiato della donna amata, dolce meo drudo e vattene, meo sire, addio t'accomando, che ti diparti da mene ed io tapina rimanno. Lassa, la vita m'è noia, dolce è la morte a vedere, ch'io non pensai mai guerire, membrando me fuori di gioia. Vi riporto la poesia con la maggiore aderenza possibile, ma in italiano del nostro tempo. Dolce, e dolce non c'è bisogno di niente, dolce meo drudo. Drudo è l'amante, der liebende. È l'amante nel senso onesto e buono della parola. Badate, oggi è una parola letteraria, non solo, ma ha acquistato sapore peggiorativo. È l'amante illecito, ma non si adopera più. È una parola oggi scomparsa dal nostro italiano moderno. O dolce mio amore, vattene, meo sire, mio signore, addio ti raccomando, perché ti diparti, perché te ne vai via da me, ed io tapina, ed io infelice rimango. Oimè, la vita mi è noia, mi è dolce a vedere la morte, perché io non ho mai pensato di poter star bene pensando che io non ho gioia. Voi avete visto che con un po' di buona volontà io potrei proprio, tranne una parola che è scomparsa dall'italiano moderno, il resto, se voi lo leggete così, prendendo all'improvviso, non dico un popolano, ma una persona appena che sappia un dialetto meridionale, capisce perfettamente. Un'altra parola rara è dipartire, che oggi dai dialetti meridionali è scomparsa. Ma taccomando, ancora oggi, io sono napoletano, nel dialetto napoletano, a Madonna taccomanna, Dio taccomanna, eccetera, eccetera. Ma cumanna a Madonna, e via discorrendo. Tapina esiste ancora un po' letterario, ma esiste ancora in italiano e così via. E allora voi mi direte, ma il siciliano? E qui io devo ricordarvi una cosa. Queste poesie della scuola poetica siciliana ci sono giunti attraverso una Vavlung, una filloge, famosa, famosissima tra i filologi e gli storici della lingua italiana, che è il cosiddetto Canzoniere Vaticano 3793, ovvero più noto come il libro delle varie romanze volgari, dove queste poesie si seguono l'un l'altra con il nome dell'autore accanto. Ma queste poesie sono state trascritte, copiate da un toscano, il quale ha attenuato, ammorbidito il siciliano precedente. E i filologi hanno, mediante naturalmente lo studio della dialettologia e della evoluzione della lingua, hanno cercato di ricostituire il testo originario. In qualche caso, nel caso proprio di una poesia di Heinz, di Enzo, in un studioso del Cinquecento siciliano, Giovanni Barbieri, è stato possibile trovare addirittura il testo originario siciliano. Cioè abbiamo il siciliano da una parte, la trascrizione toscana dall'altra. Non mi posso trattenere a lungo su questo problema, che poi vi annoierebbe. Ma le differenze non sono molto forti. Riguarda soprattutto le desinenze. Il professor Mazzarese Faldella ci può dire che in siciliano c'è nelle finali dei verbi una certa abbondanza degli i. Probabilmente invece di dire guerire direbbe gueriri, con un po' con le R un po' più forti che non siano nel toscano. E vidiri mi pare che si dica, vero? Invece di vedere, invece di dire, ma come? Sì, appunto, in molti, però la differenza non è profondissima, anche perché oggi i dialetti, dopo sette secoli dalle vicende di cui stiamo parlando, hanno in certi casi accentuato la loro differenza. In ogni caso, quello che voi dovete tenere presente è che questo manoscritto ha trascrittori toscani. Ed è un fatto molto importante. Perché? Perché toscani e perché è importante? Perché quando, come abbiamo parlato anche stamani, la corte Sicilia, del regno di Sicilia, svela, è stata dissolta o in gran parte dissolta, i testi, le opere sono rimaste in Sicilia e sono state raccolte e studiate, raccolte e trascritte, non diciamo studiate, parola troppo impegnativa, dai mercanti fiorentini che sono venuti al seguito di Carlo Vangioni. Mercanti fiorentini che hanno diffuso la conoscenza di questa poesia e, aggiungiamo, si sono trovati di fronte alla soluzione di un problema linguistico che era stato elaborato per la Sicilia, ma che non voleva soltanto per una Sicilia. Tant'è vero che lo stesso problema verrà ripreso, studiato, lì studiato davvero ed elaborato da Dante. Ma a questo punto voi mi porrete un'altra domanda. Ma questa scuola poetica siciliana è sorta da un'isola? Quali sono state le sue radici culturali? Da dove ha preso alcuni degli elementi della sua cultura? Che tipo di poesia è? La risposta ve la dico subito, chi è venuta da molto tempo è molto chiara: l'influenza, la spinta è venuta dalla poesia provenzale. Non dovete dimenticare che la letteratura italiana è, relativamente parlando, l'ultima delle grandi letterature romane. Cronologicamente è l'ultima delle grandi letterature romane. Una scuola poetica siciliana, abbiamo detto, cronologicamente è intorno al 1233, 34, 35, quando la grande letteratura provenzale è ormai alla fine, quando la grande letteratura francese si è già manifestata pienamente. C'è già stata la chanson in letteratura provenzale, ci sono stati tutti i grandi trovatori, tutti, Peire Cardenal, Guillaume de Figueira ed altri ancora, ci sono già stati tutti, Arnaud Daniel e Peire di Vidal, che la letteratura provenzale è tutta già maturata, è finita, si può dire. E la francese, quella in lingua d'Oïl, quella della Francia centro-settentrionale, ha avuto già le sue più grandi manifestazioni. C'è già stato Christian de Troyes, c'è già stato Marc Aurèle, c'è già stato Rudbeuf e compagnia bella. In questi anni, anzi proprio, in questi anni continua Rudbeuf e gli altri. Cioè noi abbiamo che la letteratura italiana, con i suoi inizi, è in realtà, lo ripeto, l'ultima delle grandi letterature romanze. Ed ha nei suoi momenti iniziali subita una fortissima influenza della letteratura francese in lingua d'Oïl per quello che riguarda la letteratura epico-narrativa. In qualche caso scrivono addirittura in francese. Permettetemi un piccolo ricordo: ancora nella seconda metà del 200, Marco Polo, il famoso veneziano esploratore e governatore della Cina, quando in prigione a Genova vuole raccontare le sue vicende, le detta in italiano, in veneziano, ma vengono tradotte in francese, un francese che nessuno parlava, ma tant'è, è un francese un po' personale, di Rustichello da Pisa. Perché? Perché gli uomini colti intendano. Cioè la lingua della cultura nell'Italia, ancora nella seconda metà del 200, poteva essere, in determinate regioni d'Italia, il francese. La lingua d'Oïl. Ebbene, nella Italia meridionale, come nell'Italia in genere, sotto la spinta della conquista francese del mezzogiorno della Francia, viene una grande trasmigrazione di poeti in lingua provenzale che dalla Francia vengono in Italia. Perché? Perché nella Francia meridionale, in quella che oggi si potrebbe chiamare, che i francesi chiamano con un termine moderno, l'Occitania, dove si parla la lingua doc, praticamente da Marsiglia all'Oceano Atlantico, da Marsiglia alla Guascogna. In questa zona la classe dirigente francese, la classe dirigente provenzale occitanica locale è stata sostituita da una classe dirigente francese che non capisce i provenzali, non li capisce perché parla un'altra lingua. Questi nuovi signori parlano francese, i poeti provenzali parlano la lingua doc e non la capiscono. È come se, immaginate che io fossi poeta e andassi a cantare in italiano alla corte di un sovrano spagnolo, direbbe: ma tu sarai un grandissimo poeta, io non ti capisco. E allora questi poeti passano in Italia. Perché in Italia? Perché la classe feudale e dirigente italiana, la classe colta italiana, conosceva e poetava il provenzale. Prima della letteratura italiana noi abbiamo una letteratura di italiani in lingua provenzale. Ecco perché quando questi personaggi della curia di Federico II, della corte di Federico II, decidono di poetare, i temi della loro poesia, e non solo nella scuola poetica siciliana, tendono ad essere alcuni dei temi della poesia siciliana, della poesia provenzale. L'amore dei poeti della scuola siciliana è un amore che segue da vicino le forme espressive e il modo d'essere dell'amore della poesia provenzale. Basta pensare al termine di fin amor, che è provenzale ed italiano. L'amore che si prova verso la dama non è l'amore qualsiasi, è quell'amore speciale fatto di devozione, di omaggio, di sottomissione e di dedizione, che si chiama appunto il fin amor. Dicevamo, quindi, una scuola poetica nella quale il problema linguistico è quello di trovare una lingua che valga al di là dei dialetti particolari. E abbiamo detto che socialmente questa classe che adopera questa lingua è formata dal mondo delle persone intorno a Federico II, intorno ai personaggi della corte, maggiori e minori. Siamo cioè di fronte, diciamo pure, ad una lingua di élite, ad una lingua di una classe dirigente elevata. E Dante, quando parlerà della scuola poetica siciliana, dirà che proprio loro hanno elaborato un linguaggio tale che tutti quanti vogliono scrivere in poesia vera, elevata, scrivono in siciliano e si chiamano siculi, e così si chiameranno per sempre. Sono queste le parole testuali di Dante. In realtà, in questo modo, si veniva a superare il problema storico, il problema concreto della lingua italiana. Prima della scuola poetica siciliana, noi abbiamo una notevole fioritura poetica. Non pensate che prima della scuola poetica siciliana l'Italia sia un deserto di poesia. Basta pensare al cantico di Frate Sole di San Francesco, una delle voci più alte della poesia e della lirica europea, ma il cantico di Fate Sole è in dialetto umbro. E se voi prendete altre composizioni poetiche, vedrete che sono in dialetto lombardo, in dialetto veneto, cioè ogni luogo viene ad avere la sua espressione linguistica. La intuizione dei, diciamo, di Federico II, l'intuizione di Federico II e dei suoi collaboratori è quella di trovare qualche cosa che vada al di là, che valga per tutti. Una esigenza unitaria. Ebbene, è la stessa esigenza unitaria che voi sentirete vivere nella De Vulgari Eloquentia di Dante. Il che ci porta ad una, direi, direzione, per non dire conclusione, estremamente interessante e a me pare anche importante. La scuola poetica siciliana è dunque il primo tentativo di risolvere la lingua in termini di lingua sovra-dialettale, di lingua, diciamo pure nazionale, del Regno di Sicilia, del popolo italiano, Regno di Sicilia alla curia di Federico II, dell'Italia nel De Vulgari Eloquentia, col risultato di creare una letteratura di élite. Questa letteratura di élite che farà ogni sforzo, badate, per non essere di élite, ma che lo diventerà fatalmente. E che deve poi la sua vittoria, come letteratura di élite, al fatto di alcune grandi personalità poetiche, soprattutto a Dante e Petrarca. La poesia vince sulla prosa, Dante e Petrarca, con Boccaccio, ma Boccaccio come seconda influenza, in realtà soprattutto Dante e Petrarca, che riusciranno ad imporsi come linguaggio poetico sovradialettale, diciamo pure, se non vogliamo adoperare questa parola, sovradialettale, se non addirittura nazionale. In questo senso, con Federico II, la lingua e la cultura italiana, con Federico II e gli uomini attorno a lui, la lingua italiana ha giocato, diciamo così, le sue carte dal primo momento. Popolare o di élite? Locale e dialettale o unica ma di persone tutte? Badate, noi parliamo di Federico II e della sua curia, ma cerchiamo di porre anche problemi che riguardano, abbiamo detto, la civiltà italiana e germanica, italiana e, diciamo, tedesca nel senso più linguistico che statale, dei nostri due popoli. Ebbene, vedete allora che un problema del Medioevo, del 200, è un problema che non è mai più morto. Quando poi questo problema ritornerà nel 500, ritornerà nel 700, ritornerà col Manzoni, ritornerà col Verga, è sempre lo stesso problema. Uno dei problemi che più hanno tormentato il Manzoni era perché la lingua italiana, perché la letteratura italiana non è popolare in Italia. Perché? Perché non è una lingua nata dal popolo, ma è una lingua elaborata in una formazione di importanza eccezionale. Non sarò io a negare l'importanza e la bellezza della mia letteratura, ma che però ha dei suoi limiti. Se volete un esempio, vi posso dire che oggi 1974, Se voi prendete qualche parte di Dante che non sia particolarmente complessa dal punto di vista teologico e la leggete ad un toscano, lucchese, pisano, fiorentino, quello che voi volete, lo capisce perfettissimamente. Alcune forme che a noi sembrano dialettali della Divina Commedia, e lo sono, per un toscano vanno benissimo. Tutti voi sapete che, per esempio, Dante molte volte adopera enno invece di sono. Ebbene, in Toscana ancora oggi si dice enno andati a casa oppure enno andati al mare per dire sono andati al mare o sono andati a casa. Però, se voi questo stesso brano lo leggete a un contadino siciliano o a un contadino, vorrei dire, peggio ancora, torinese, assolutamente non capirà quasi niente. Perché? Perché proprio quella soluzione unitaria, quella scelta che è partita dalla curia di Federico II e che si è continuata con alternative, con tentativi di soluzione successivamente, è rimasta ancora a gravare e grava ancora in questo momento che io vi parlo sulla lingua e sulla cultura italiana. Noi abbiamo una cultura di altissima, una letteratura di altissima qualità che per i 4/5 o per i 3/4 del popolo è difficile, se non in qualche caso incomprensibile. Voi vedete allora che quella soluzione, quel modo, quella impostazione ha avuto importanza e permanenza fino ai nostri giorni. In realtà, voi mi direte, ma professore, lei ci ha detto di Federico II, abbiamo parlato di questi poeti, abbiamo parlato di questi letterati, però, tranne pochi versi, non ci ha letto niente. E qui entra, perdonatemi solo per un momento, entra un giudizio estetico. Vi dirò che dal punto di vista della poesia, il valore della scuola poetica siciliana è molto modesto. Di quanto è grande, importante il valore storico-culturale, di tanto io non mi nascondo che condivido il giudizio di molti dei nostri critici che ha un valore artistico modesto. Badate, valore artistico, non valore letterario, perché il valore letterario è invece importantissimo. Perché? Perché nel riaccostarsi a questi modelli, nell'accostarsi a questi modelli provenzali, non hanno soltanto preso evidentemente la teoria dell'amore, ma hanno anche ripreso una serie di artifici letterari, una serie di giochi di parole, di accostamenti verbali, tutte quelle artificiosità, quelle eleganze, quelle elucubrazioni difficili che la poesia provenzale aveva portato al massimo, vengono tranquillamente riprese da alcuni, cioè da molti di questi poeti. In questo senso è importantissimo specialmente Jacopo da Lentini. Se voi leggete la storia in sostanza più bella della nostra letteratura, che è quella del De Sanctis, voi leggerete su Jacopo da Lentini un giudizio molto severo. È un poeta artificioso, lambiccato, cioè che distilla le parole Tropfenwald, vero, goccia a goccia, che è viceversa artificioso. Ebbene, questo che è dal punto di vista estetico un demerito, dal punto di vista della elaborazione letteraria, della formazione di un linguaggio letterario, è estremamente importante, è estremamente valido dal punto di vista storico. Perché? Perché se gli italiani avevano elaborato una grande teoria della composizione letteraria, sentiremo domani dal professor Schaller molto su questo argomento che egli conosce in modo magistrale, però nella lingua italiana la cosa non si era ancora realizzata. In prosa bisognerà aspettare Guittoni d'Arezzo, in poesie sono precisamente il notaio Jacopo D'Aventini, sono precisamente i Pier della Vigna, gli Enzi, eccetera, che si sforzeranno di portare questa lingua, che è ancora una materia grezza, di portarla a questa più alta qualità linguistica, dicevamo valida per tutti, e a una più alta qualità letteraria, artificiosa, raffinata, che sappia riprendere alcune delle forme della poesia e dell'arte lirica, soprattutto lirica provenzale. Ci troveremo in questo modo di fronte a quella che io potrei dire la nostra conclusione, poi 5 minuti leggeremo qualche cosa di poesia. E cioè, non ci troviamo di fronte dunque ad uno sforzo, diciamo, storicamente importante e dobbiamo dire storicamente riuscito di tradurre, di trasferire il fatto letterario provenzale nella lingua italiana. Ma è interessante nello stesso tempo che non manchino dei letterati, per esempio Giacomino Pugliese, i quali non sono sordi, non sono tali da dimenticare che vi è anche un mondo popolare. Nella scuola poetica siciliana qualcuno si accorge che vi è questo mondo popolaresco con i suoi sentimenti, con la sua anima, con i suoi problemi. Non vorrei sembrarvi, vi ho detto il valore estetico di questa poesia è modesto, non vorrei adesso darvi l'impressione che con la scuola poetica siciliana tutto il destino letterario d'Italia si sia risolto. Quello che io desidererei sottolinearvi, avviandomi alla mia conclusione, è che però i problemi fondamentali della lingua e della letteratura italiana sono stati avvertiti alla curia di Federico II. Voi sapete che storicamente non sono tanto importanti le cose che si fanno, ma la coscienza che se ne ha. Ora, è importante che in questa corte di un sovrano che stamani, giustamente, io stesso e gli altri amici e colleghi chiamavamo e dicevamo sovranazionale, al di sopra dei popoli e delle nazioni, a un certo momento questo stesso sovrano abbia come individuo, come uomo, torniamo a quello che dicevo ancora stamani, abbia sentito vivo questo mondo che gli era intorno, questo mondo linguistico e culturale che gli era intorno, e che abbia voluto, questo direi che si possa dire senza dubbio, e che abbia voluto dargli un senso, una forza, un valore più alto ed elevato. Direi che in questo senso, forse, se non mi inganno, e possiamo, ripeto, discuterne, in questo senso a me pare che nella scuola poetica siciliana viva, se non la spinta personale di Federico II, che non potremo vedere in questa o in quella parola, e che non vedremo certo dalle sue liriche, che sono di valore modesto anche quelle, però quello che c'è che fa pensare ad un grande è proprio questa spinta verso l'alto, questa spinta verso dei valori più elevati, questo andare verso una meta più alta. Qui io credo di poter dire che c'è dietro il senso di questa più alta realtà da raggiungere, se voi volete potete chiamarlo il demoniaco del potere o il senso della gloria o la solitudine della grandezza. Gli storici hanno interpretato in tanti modi la personalità di Federico II, ma certamente questo streben, è vero, questo aspirare verso qualche cosa di più alto, di più valido e di più grande. In questo senso, la lezione della scuola poetica siciliana mi pare che abbia un valore per il suo tempo e che abbia un significato e crei un problema storico, ripeto, soprattutto storico, anche per gli uomini di oggi. E concludendo, io vorrei terminare la lettura della poesia di Federico II, leggerne ancora una o due. Naturalmente mi rivolgo qui specialmente ai giovani di lingua tedesca. Naturalmente qui forse avete più che mai bisogno di un aiuto linguistico, non avete che da chiedermelo e io sarò felicissimo di interpretare ancora più chiaramente, se ce n'è bisogno, il testo che vi leggo. Si tratta, non saranno letture molto lunghe, vi prego ancora un 5-10 minuti, perché non intendo assolutamente abusare della vostra pazienza, ma d'altra parte non leggere almeno quella che è la più sicura delle poesie, quella che più sicuramente si dice che si possa attribuire a Federico II, e non leggervi almeno l'inizio di una o due delle altre poesie più interessanti, mi dispiacerebbe, almeno avete un'idea di questa letteratura. Dicevamo, la prima strofa l'abbiamo letta, ve la rileggo. Si tratta di una donna che vede partire il suo amato, il Bruno, appunto, e si preoccupa, si angoscia della sua solitudine e dei rischi di fronte ai quali l'amato si trova. Dolce mio Drudo e vatene, mio sire, addio t'accomanno, che ti diparti da mene, ed io tapina rimanno. Lassa, la vita me noia, dolce la morte a vedere, che io non pensai mai guerire, membrando me fuori di gioia. Questo l'abbiamo già letto, andiamo avanti. Membrandome che te ne vai, lo cor mi mena a gran guerra, di ciò che più disiai il mi tol lontana terra. Or se ne va lo mio amore che sovra gli altri l'amava, biasmo la dolce Toscana che mi diparte lo core. Ricordando, pensando, dicevamo artifici letterari, permettetemi di farvi vedere che qui il primo verso della strofe precedente, una parte della strofa precedente viene ripresa nella strofa seguente, membrando me fuor di gioia, finisce la strofe prima, la seconda comincia, membrando me, ricordandomi che te ne vai, il cuore mi mena gran guerra, mi fa grande guerra, cioè il cuore mi fa soffrire, il mio amore per te è come una guerra che il cuore fa contro di me. Una terra lontana mi toglie ciò che io ho più desiderato. Ed ora se ne va il mio amore, che lo amavo sopra di ogni altro, e biasimo, protesto contro la dolce Toscana che mi spezza il cuore. L'amato parte e dovrebbe andare, come sembra, in Toscana. Voi sapete che questo, proprio la dolce Toscana, è il più grosso ostacolo ad una attribuzione sicura a Federico II, perché non si capirebbe perché Federico II debba parlare della Toscana. Però qualcuno dice, ma perché non dovrebbe parlarne? E quindi siamo al punto di prima. Adesso la donna ha espresso i suoi sentimenti per questo amato che va via, l'amato risponde, e cioè un discorso, è vero, è un discorso a botta e risposta. Dolce mia donna, l'ogire non è per mia volontate, che mi convene ubbidire quelli che m'ha impotestate. Or ti conforta s'io vado, e già non ti dismagare, ca per null'altra d'amare a morte non falseraggio. O dolce mia donna, dire è un verbo che in italiano è scomparso, nell'italiano di oggi, ed è, cioè nei dialetti, ma nell'italiano moderno di oggi è scomparso, dire è andare. O dolce mia donna, l'andare, cioè la mia partenza, non è per mia volontà, cioè non me ne vado perché mi faccia piacere, ma mi conviene, io sono tenuto ad obbedire a colui che mi ha in potere, a colui che è il mio signore. Anche questo fa pensare che Federico II abbia o immaginato una situazione artificiale, perché evidentemente su di lui nessuno comandava. Ora ti conforta se io vado, non addolorarti se io me ne vado e non soffrire per questo, perché stai tranquilla, io non ti falseraggio, cioè non ti falserò, non ti ingannerò per nessun'altra nel mio amore. Il vostro amore, l'amore che io ho per voi, mi tiene, lo vostro amore mi tiene e tani in sua signoria, calealmente ma bene d'amar voi senza falsia. Di te vi sia rimembranza, non mi agiate in obrio, c'avete in vostra balia tutta la mia disianza. E qui la donna riprende: l'amore che io ho per voi, mio signore, è tale che mi ha in suo dominio, perché veramente, lealmente mi capita di amarvi senza falsità, di amarvi spontaneamente. Ricordatevi di me vi sia rimembranza, di me vi sia ricordo, e non mi abbiate in oblio, cioè in dimenticanza, voi avete in vostra balia, cioè avete in vostro dominio, tutto il mio desiderio, tutta la mia passione. Dolce mia donna, il cavaliere che conclude, il cognato domando senza tenore, che vi sia raccomandato che con voi riman lo core, cotale l'innamoranza degli amorosi piaceri, che da, non mi posso partire da voi, donna, in leanza. O dolce mia donna, io domando il cognato, cioè chiedo di essere lasciato andare, senza tenore, senza indugio, e io vi raccomando il mio cuore che rimane con voi, è tale l'amore che ho, la innamoranza, è tale l'amore che io ho per voi, che in verità, in lealtà, da voi non posso partire, non posso andarmene. La traduzione, la trasposizione in prosa di una poesia non è mai poetica, ma credo che non facciamo torto alla grande ombra di Federico II se diciamo che qui non ci troviamo certo di fronte a una delle vette della letteratura italiana. Ma se, come molte cose inducono a credere, questa poesia è di Federico II, mi dà la sensazione della sua partecipazione ad una civiltà letteraria, ad una cultura letteraria. Cioè a un uomo che non è soltanto il politico, che non è soltanto lo scienziato, che non è soltanto l'uomo che si preoccupa ed è implicato nei grandi problemi, come dice nel prologo, è vero, al De Arte Venandi Fumaribus, i banis rebus constitutus, è vero, preso da grandi affari, ma è un uomo il quale vive una comunione di civiltà. E qui io vorrei concludere su questo punto di Federico II. Federico II allora è stato re di Sicilia ed ha vissuto anche sul piano della lingua e dei problemi letterari la civiltà e il mondo del suo regno. Cioè quell'uomo il quale con i suoi sudditi arabi e col mondo arabo viveva i problemi che il mondo arabo gli offriva. Stiamo attenti a questa pluralità e al senso di questa pluralità di interessi. Quell'uomo il quale col mondo arabo viveva i problemi della cultura che il mondo arabo gli offriva, dalle questioni famose, è vero, al dotto teologo e filosofo arabo Ibn Sabin, a quelle che sono le traduzioni di Aristotele che poi erano fatte dall'arabo, eccetera. Ebbene, quest'uomo il quale con gli arabi viveva i problemi scientifici, con i notai e con gli uomini di cultura della sua corte e di coloro che gli erano intorno come collaboratori di governo nella stesura degli atti dello Stato, viveva quei problemi letterari che molte volte la stesura degli atti dello Stato richiedevano. Cioè, il Federico che noi dobbiamo immaginare che almeno leggesse le cose più importanti, certo non tutte le letterine degli uffici, questo non lo ha fatto, non lo fa nessun grande personaggio storico, non so perché Federico II dovrebbe leggere, penso io, la concessione di un pezzetto di terra a un tale, ma gli atti, i grandi atti di Stato certamente li ha visti. Ebbene, questi grandi atti di Stato, dove noi vediamo trionfare, e lo sentiremo, ripeto, domani, una grande capacità di costruzione letteraria, bella o brutta, questo è un altro problema. Ebbene, quest'uomo sentiva anche i problemi della lingua dei suoi sudditi italiani. Cioè, quella pluralità della ricchezza, quella pluralità e quella ricchezza della personalità di Federico II viene anche testimoniata, se voi volete, da queste decine, poche decine di versi che noi abbiamo o non ha letto. Ma un'ultima cosa, perché vedo che il tempo è passato, mi scuso moltissimo, ma volevo soltanto accennarvi a Pier della Vigna, pochi versi, perché come vi ho detto, e badate, torno a ripeterlo, In Pier della Vigna è importante l'uso e l'introduzione dell'endecasillabo. Voi sapete che l'endecasillabo è uno dei versi italiani che poi ha avuto più fortuna, perché è entrato nella composizione delle grandi strofe poetiche. La terzina dantesca è in endecasillabo, le sestine e le ottave dei nostri poemi sono in endecasillabi, e voi sapete benissimo che addirittura l'endecasillabo è stato adoperato, come diciamo nel linguaggio letterario italiano, anche solito, cioè uno dietro l'altro, senza che formi strofa e senza che abbia la vita. Se mi permettete, è vero, una delle più alte poesie della letteratura italiana, come sono i sepolcri del Foscolo, di Ugo Foscolo, sono in endecasillabi, appunto, in endecasillabi sciolti. Ebbene, la fortuna dell'endecasillabo comincia con Pier della Vigna. Naturalmente, se mi permetterete, non so se riuscirete a cogliere la differenza tra la poesia che abbiamo letto prima e questa. Se non mi inganna il mio vecchio amore per Pier della Vigna, dirò che voi sentite qui un tono letterario più alto. Le parole sono più solenni. La composizione del verso è più robusta ed organica. Liricamente non c'è molto di più, e forse c'è persino meno che nella poesia di Federico II. Ma è l'aspetto letterario che viene ad assumere un maggiore rilievo. Sentite un certo più largo respiro nel verso. Amore in cui disio e ho speranza, di voi bella mi ha dato miserdone. Permettetemi di farvi vedere subito due parole che sono certamente lontane dal vero dialetto siciliano. In siciliano si dice disiri, mi pare. Ecco, anche sì, è una parola che dal siciliano moderno è morta anche quella, ma si diceva. Però non è disiri, è indubbiamente qui per il verso, è disio, cioè una espressione che non è siciliana. Speranza, va bene, è una parola che però va bene qui. Ma c'è una parola assolutamente letteraria ed è guiderdone. Il guiderdone non viene dal dialetto. È una parola elaborata per metterla qui. E guardami finché, dunque, amore in cui ho desiderio e speranza mi ha dato ricompenso. Ricompensa, il guiderdone è la ricompensa, mi ha dato ricompensa per voi, o donna, e guardomi finché venga allegranza, pur aspettando buon tempo e stagione. Altra parola che certamente non è dialettale è infinché. Allegranza. Vedete come qui vi trovate di fronte ad un impasto verbale più elevato, più alto, e aspetto, guardomi e sto in attesa fino al tempo in cui venga allegranza, cioè letizia, allegria, diremmo noi oggi, ma allegranza ha un senso di maggiore durata, aspettando il buon tempo e la stagione, aspettando il tempo e il momento opportuno. Comunque in mare ed astene di dire, e quando vede il tempo e te lo spanna, e giammai la speranza non lo inganna, così faccio Madonna in voi venire. Come l'uomo il quale è in mare ed ha speranza di andare, di partire, e quando vede il tempo, cioè quando vede il buon tempo, mette spanna, cioè mette in movimento la nave, e la speranza quindi non lo inganna di partire, così io faccio, o Madonna, quando vi vedo venire. Cioè, come si vede quando viene il bel tempo, il marinaio è sicuro di poter far partire la nave, così quando io vi vedo sento che il mio cuore si riempie di gioia, e così via. E poi mi lascio, scusatemi, è vero, non continuo perché mi pare di avere già abusato della vostra pazienza, e vorrei concludere dicendo che con questi pochi esempi, minimi esempi, io non ho voluto risolvere il problema della scuola siciliana, offrirci piuttosto la possibilità di una riflessione su di un fatto che è di letteratura, ma la cui importanza non si limita alla letteratura, per entrare invece nei problemi più profondi della storia e della civiltà italiana, diciamo pure, e con questo concludo davvero, della formazione della nazione italiana. Perché, già che stiamo parlando del 200, e nel 200 la nazione italiana comincia ad avere la sua espressione più consapevole di sé, badate, la nazione italiana non è stata per secoli un fatto politico, ma è stato sempre, o ha voluto essere sempre, un fatto linguistico, letterario, spirituale. La nazione italiana non si riconosce nella sua realtà politica, che come voi sapete è dal 1860-70, ma si riconosce invece proprio in queste forze unificatrici sul piano spirituale e culturale. E in questo senso, allora, la scuola poetica siciliana è uno dei momenti, una delle prese di coscienza dei problemi della formazione della nazione italiana come fatto di cultura. Und bereits als der deutschen Literatur, ja, um eine Literatur der verschiedenen deutschen Stimmen, um Sprachzeichen für den Alemann, der Bayern, der Franken, der Sachsen, während ihre Satellit etwa mit einer einheitlichen deutschen Sprache in dieser Weise Elemente der Übereinstimmung zwischen den einzelnen deutschen Dialekten, die deutsche Literatur aber in althochdeutscher Zeit, also bis ins 11. Jahrhundert hinein, ist durchaus eine Literatur der verschiedenen Stimmen. Und das, was sich dann im 12. Jahrhundert herausbildet, das zeigt eine gewisse Parallele etwa zur Sprache der sizilianischen Dichterschule. Das ist nicht mehr etwa ein bestimmter Dialekt, der eine gewisse Dominanz über die anderen gewinnt, sondern das ist eine ausgesprochene Dichtersprache, eine genormte Sprache, eine Sprache der Übereinkunft, der Konvention zwischen den Dichtern der verschiedenen deutschen Stämme, die nun eine, wenn man will, Kunstsprache schaffen, nach bestimmten Vorbildern, wobei für mich das Promosalische, und da würde ich von Ihnen, Herr Kollege Manselli, abweichen, nur eine Komponente unter mehreren, in die in dieser Richtung wirken, darstellt. Denn ich glaube zwar, dass der Promosalische Einfluss auf die sizilianische Dichterschule sehr groß ist. Das hat ja bereits Adolfo Gaspari in seiner Darstellung der sizilianischen Dichterschule in Einzelheiten belegt. Er hat also verschiedene Prägungen, verschiedene Bilder herausgegriffen, die in der provenzalischen Dichtung eine gewisse Rolle spielen und die in der sizilianischen Dichterschule wiederkehren. Was er übersehen hat, es ist übrigens in letzter Zeit, gerade in dieser Begründung der sizilianischen Dichterschule, Hugo Friedrich in seinem Buch der italienischen Bühne, der ja auch auf diese provenzalischen Einflüsse großen Wert legt. Ich will nur diese provenzalischen Einflüsse nicht leugnen, das liegt mir ganz fern. Aber ich glaube, dass zur Zeit Friedrichs II. Diese Prägungen der provenzalischen Dichtung Christum gemeineuropäisches Geistesgut geworden sind. Und dass sie genauso gut etwa auf dem Französischen, Sie haben darauf hingewiesen, dass auch etwa Chrétien de Troyes dieser Begründung der italienischen Dichtersprache vorausgeht, wie auch unter Umständen aus der deutschen Tradition entnommen sein können. Denn diese höfische Sprache ist etwa um 1220 etwas, was die vorprovenzalischen herstammt, in den gesamten europäischen Literaturen, auch im Spanischen, weitgehend durchgesetzt hat, sodass wir von einer unmittelbaren, von einer direkten Übernahme aus dem Provenzalischen in dieser Weise nicht sprechen können. Sondern ich glaube vielmehr, dass sich hier also die sizilianische Dichterschule an eine ständische Tradition, die sich im ganzen Europa inzwischen durchgesetzt hat, anlehnt. Also wäre das Provenzalische, das möchte ich dabei sagen, nur ein einzelner Strang, der in dieser Entwicklung der italienischen Dichtersprache im Rahmen der sizilianischen Dichterschule also den Kreis um Friedrich II. Geführt hat. Es hat schon Hans Miese in einem Aufsatz in der historischen Zeitschrift über das geistige Leben im Hochreich von Friedrich II., ich glaube 1913 oder 14 ist der Aufsatz erschienen, darauf hingewiesen, dass ein ganz entscheidender Einfluss auf die sizilianische Dichterschule von den Juristen Oberitaliens ausgegangen sei, von den Notaren und Beamten, die gerade im Umkreis von Bologna ihre Ausbildung gefunden haben, wo sich ja auch bereits eine gewisse dichterische Tradition gebildet hat, die nun freilich nicht von einem italienischen Dialekt, sondern von Latein ausgeht. Und es handelt sich ja bei der Minnedichtung, die ja in der sizilianischen Dichterschule eine entscheidende Rolle spielt, weitgehend auch um Prägungen und Übersetzungen der lateinischen Liebespoesie in die Minnesprache, in den Minnedienst des Ritterstandes im Mittelalter. Dazu wäre noch eine weitere Frage zumindest erwähnenswert. Es hat Konrad Urdach in Bezug auf die deutsche, aber auch auf die provenzalische Dichtung darauf hingewiesen, dass der gesamte Minnedienst eine Wurzel in dem arabisch-persischen Verhältnis Mann-Frau besitzt. Und diese Aussage von Urdach hat in jüngster Zeit auch Theodor Prinz bestätigt, der gerade auf die mozarabischen Lieder in Spanien hingewiesen hat, wo wir eine Weiterbildung dieser Tradition finden. Nun, für eine solche Wurzel hätte sich ja gerade bei dieser Symbiose in Sizilien ein ganz besonderer Ansatzpunkt geboten. Und dann muss ich noch auf etwas hinweisen, auf was ich in meinem Referat zu sprechen komme, aber ich möchte auch hier schon einen Hinweis geben. Das ist die deutsche, oder besser gesagt, da würde ich also mit Herrn Schaller ganz übereinstimmen, die staufische Wurzel, die der sizilianische, wie gesagt, die sizilianische Dichterschule auch besitzen kann. Da hat zuerst Hans Naumann in einem Aufsatz über die hohen Staufen als Dichter und ihre Dichterkeit, so heißt es auch der Aufsatz, im Euphorion 1935, damals hieß das die Zeitschrift Dichtung und Volkstum, es ist dabei die Weiterführung des Euphorion, hingewiesen, der also zeigt, dass Friedrich II. In einer bestimmten Abfolge seiner eigenen Familie steht. Dabei weist er nicht hin, was ich also machen werde in meinem Referat, etwa auch die Bedeutung, die die politische Dichtung um Friedrich Barbarossa annimmt, denn das ist ja Dichtung, wie wir wissen, in lateinischer Sprache. Gunther von Feieris, der Archipoeta, Raphael Wien, Gottfried von Viterbo, um nur einige Namen zu nennen. Aber in unseren Handschriften, die allerdings meistens erst aus dem 13. Jahrhundert stammen, wird ja Heinrich der VI. Als Minnewieder nicht nur erwähnt, sondern es werden ihm drei Minnewieder zugeschrieben und auch die heutige Literaturkritik hat ihn als den Verfasser dieser Minnewieder angesprochen, die ganz in der provenzalischen Tradition stehen. Also brauchen wir nicht etwa eine unmittelbare Übernahme von provenzalischen Traditionen durch Friedrich II. Annehmen, sondern durchaus um tradierte Elemente des Minnedienstes innerhalb der staufischen Familie, etwa bei seinem Vater Heinrich dem VI. Dazu kommt ein zweites Element, das man nicht übersehen darf. Die sizilianische Dichterschule beginnt ja erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Ihre Entfaltung erlebt sie erst in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts. Also nach dem deutschen Aufenthalt Friedrichs II. Und wir wissen also aus den Zeugnissen, dass Friedrich II. In Deutschland von einer ganzen Reihe von Minnedichtern umgeben war, sodass er auch durchaus aus dieser Begegnung, aus dieser Tradition, unabhängig davon, wie weit er nun der diffizilen Sprache der Minnedialektik folgen konnte, Anregungen geschöpft hat. Ich möchte damit nicht sagen, das wäre also eine ganz falsche Interpretation meiner Ausführungen, dass die sizilianische Dichterschule nun unmittelbar von der deutschen Dichtung her übernommen ist, aber ich möchte glauben, dass Dichter für den Tier mit einer Vielzahl von Einflüssen, von Bestrebungen zu tun haben, wobei diese staufische Tradition eine unter mehreren Komponenten ist, die zu dieser höfischen Dichtung am Ende der 20er, in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts um Friedrich II. Geführt haben. Wobei ich Ihnen ganz zustimme, dass wir es in der sizilianischen Dichterschule, was die Sprache angeht, nicht mit einem einzigen Dialekt zu tun haben, sondern mit einer genormten Sprache, mit einer Übereinstimmung von verschiedenen lokalen Traditionen zu einer Dichtersprache, wie sie ja auch die mittelhochdeutsche Dichtersprache darstellt. Auch das ist nicht etwa alemannische oder fränkische Überlieferung, sondern das ist eine bereits genormte Sprache, eine, wie Sie ganz richtig gesagt haben, Sprache der Elite. Denn genauso elitarisch ist es auch in Deutschland. Diese Sprache, die etwa die höfischen Dichter sprechen, von Friedrich von Hausen angefangen bis zu Neidhardt von Reuthal und so weiter, ist keine Sprache, die in irgendeiner Zeit Deutschlands gesprochen worden wäre. Sondern hier handelt es sich auch um eine konventionelle Sprachform, die sich erst im Verlauf der Zeit in der dichterischen Tradition herausgebildet hat. Sehr interessant ist natürlich, dass der Eneca Syllabo in der sizilianischen Dichtersprache also zum ersten Mal vorkommt. Dagegen glaube ich, dass zwar das Sonett bei Jacopo da Lentini oder Giacomo da Lentini zum ersten Mal in der abgerundeten Form gegeben ist, dass es sich hier aber um eine Ausgestaltung der schon im Provenzalischen und natürlich auch in der deutschen Tradition vorhandenen Strophenform handelt. Denn wir haben es hier genau mit Aufgesang, Abgesang zu tun, mit dem Aufgesang, der in zwei Stollen verfällt, der größer ist als der Abgesang. Nur in der Reihenfolge, da hat natürlich Giacomo da Lentini etwas ganz Neues geprägt, das ganze die gesamte europäische dichterische Tradition von allergrößter Bedeutung geworden ist. Und so können wir durchaus sagen, dass vom Hof von Friedrich II. Nicht nur für die italienische Dichtung ganz entscheidende Anregungen ausgegangen sind, sondern auch für die gemeinen europäischen Institutionen. Denn gerade die Soletforce, die hat ja bis zum heutigen Tag sich fortentwickelt, in verschiedenen Abwandlungen, ich brauche nur an das Schenkste Solet zu erinnern, dass sie eine völlige Abwandlung der italienischen Soletforce darstellt, aber auch in den Dichtungen der ganzen europäischen Literatur. Und so scheint mir also der Dichter Kreis und Friedrich II. Und also die sizilianische Schule eine literarische Wurzel für gesamteuropäische Entwicklungen von höchster Bedeutung zu sein, die man dann aber, und das ist dann vor allem der Sinn meines Erinnerungs, nicht entscheidend genug gegen die deutsche Entwicklung abheben kann, denn dort geht es um etwas ganz anderes. Denn hier ist das Thema der Dichtung ja nicht etwa die Liebe, sondern die Minne. Die Minne als eine, wenn ich das nun krass übertrieben ausdrücken darf, Methode der ritterlichen Erziehung, die also mit irgendwelchen persönlichen Liebeserlebnissen der einzelnen Dichter gar nichts zu tun haben. Ich frage gelegentlich einmal einen Prüfungskandidaten, war Walter von der Vogelweide verheiratet, und der ist meistens empört und antwortet, nein, keine Spur, brauche ich sein. Durchaus möglich, dass er verheiratet war, warum nicht? Aber es wäre ihm nie eingefallen, seine persönliche Beziehung zur Frau zum Gegenstand seines dichterischen Aufsatzes zu machen. Genau dasselbe haben wir auch hier, deshalb scheint es mir eine vollkommene Fehlentwicklung etwa literarischer Interpretation zu sein, hier in der Dichtung Friedrichs des Zweiten, in den drei oder vier Kantonen, die wir zuzuschreiben haben, das ist ja eine offene Frage, darüber wollen wir also nicht sprechen, nach persönlichen Liebeserlebnissen zu tun. Das wäre Friedrich des Zweiten nie eingefallen. Ich glaube auch, dass die Fior, die Surya, nicht etwa auf eine bestimmte Dame hinweist, sondern dass das Regel eine dichterische Formel, ein bestimmtes Bild, das Friedrich des Zweiten verwendet hat. Bitte um Entschuldigung, ich habe nicht so lange geredet, aber Sie mögen darauf sehen, mit welchem Interesse ich Ihren Ausführungen folge. Io devo ringraziare moltissimo Professor Turner per quanto ha avuto la bontà di dire nei miei riguardi. Mi ha veramente seguito con una attenzione che mi riempie di soddisfazione e devo dire che sono contento di quanto ha aggiunto e per i punti sui quali adesso chiarirò anche qualche dissenso, evidentemente la discussione rimane aperta. Io partirei dal punto che, dunque, d'accordo su quello che lei diceva del Gaspari come del Friedrich, il libro del Friedrich è per me la più bella storia della poesia italiana di questi ultimi anni, che purtroppo gli italiani non leggono perché, essendo scritta in tedesco, i nostri professori di letteratura italiana non sanno il tedesco e mi dispiace molto per loro perché perdono la lettura di un libro splendido e, devo aggiungere, di una squisita sensibilità poetica. Il Friedrich, che lei conosce meglio di me, evidentemente perché lei si interessa di problemi letterari e io no, è anche, lei lo sa meglio di me, uno squisito conoscitore della poesia contemporanea. La sua guida alla poesia contemporanea è indubbiamente la migliore che noi possediamo in qualsiasi lingua, è vero, europea o non. Quindi, d'accordo, è vero, sono contento che lei abbia voluto aggiungere, è vero, anzi, ai giovani italiani che sono qui, consiglio la letteratura, proprio come studiosi di storia, la letteratura di questo splendido libro, è vero, sulle epoche della lirica, di epoca, se non mi ricordo male, dell'italienische Lyrik. Quindi sono tutto perfettamente d'accordo, sono due indicazioni bibliografiche molto opportune. Il punto sul quale io forse, devo dirle, proprio non sento di seguirla è sulla influenza della poesia araba. Le dico subito per quali ragioni. Sono delle ragioni di natura, diciamo così, generali e di ragioni particolari. Il problema della ragione particolare, il problema di una ragione generale è questa. Lei ha ricordato come questa idea del rapporto tra poesia araba e poesia, diciamo così, europea sia nato, lei sa bene, i canzonieri di Abd al-Rahman, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo oggi è, diciamo, piuttosto revocato in dubbio. Se mi permettete un episodio personale, che una erlebnis, ahimè, vere, esplice erlebnis della mia vita è stata quando a Spoleto, nel convegno sui rapporti tra gli arabi e l'Occidente, il professor Stern, un filologo americano di grandissimo valore e che aveva sempre sostenuto da anni e anni l'influenza della poesia araba sulla poesia europea, trovò proprio Spoleto come occasione, presenti tra gli editori almeno un buon terzo, se non metà, di arabi, trovò l'occasione, egli ebreo, Stern, per dire che aveva cambiato idea e che per lui il rapporto tra poesia araba e poesia, diciamo così, d'amore occidentale è perlomeno sbaitola, dubbioso. Questo è il problema generale. Come problema particolare io aggiungerei questo fatto. Gli arabi praticamente sono stati espulsi dalla Sicilia. Gli arabi colti già in gran parte sono scomparsi dalla corte. Gli arabi non colti, la popolazione araba è stata, perché si è ribellata, è stata espulsa dalla Sicilia e concentrata in Puglia. E tranne personaggi della cancelleria, io non sono un arabista, quindi non so dire questi personaggi di cancelleria se erano o non poeti, ma tranne qualche personaggio di cancelleria, gli arabi come poeti sembrano avere perduto una gran parte della loro importanza. Ma su questo possiamo ancora discutere. Dite? Dass auch von den Baudenkmälern etwa der Araber in Palermo nichts übrig geblieben ist, wird von die Klassischen oder in Briefen berichtet, dass in der arabischen Zeit Palermo allein 300 Moscheen hätte. Es ist uns gar nichts von diesen 300 Moscheen erhalten geblieben. Gewisse Reste bei San Giovanni der Eremiti sind zweifelhaft und man glaubt, dass hier also Reste einer Moschee sich erhalten hätten können, aber ein unmittelbarer Kultureinfluss ist also sicher nicht da. Da stehe ich vollkommen mit diesem Herr Kollege Mansell überein. Wenn ich also vom arabischen Einfluss gesprochen habe, dann meine ich vielmehr das, dass etwa schon der provenzalische Mittelstand entscheidende Anregungen aus dem spanischen Raum erhalten hätte, ja, wo die dann weiter tradiert worden wären und die gerade in Sizilien, wo sich also ein gewisser arabischer Vorbesitz des Landes ergeben hat, auf einen gewissen fruchtbaren Boden, auf eine gewisse Übereinstimmung getroffen hätte. Einen direkten Einfluss würde ich nicht annehmen, da stimme ich völlig mit Ihnen überein. So. Und ich möchte noch, io vorrei ancora una volta, però, sottolineare l'importanza predominante dell'influenza provenzale. Mi scusi, è un punto delicato, ma vale la pena chiarirlo nel nostro discorso. Veda, lei diceva l'importanza dei notai che hanno studiato a Bologna. Certo, molti non sappiamo poi tanto bene la storia di questi notai, ma è probabile che molti dei collaboratori di Federico II abbiano potuto studiare a Bologna o formarsi a Bologna. Però a un certo momento noi abbiamo delle indicazioni chiarissime che questi poeti provenzali dalla Francia sono venuti in Italia. lei conosce certamente i due volumi del Der Bartholomäus su poesie provenzali relative all'Italia. Una buona parte di queste poesie provenzali si riferiscono direttamente a Federico II, alle azioni di Federico II, a fatti e vicende del suo regno, cioè il rapporto provenzale corte siciliana non è una ipotesi, è stato di fatto. Ecco perché io penso che senza negare il valore della lontana mediata influenza araba, però non dobbiamo andare a cercare le cose lontano quando le abbiamo vicine. Se intorno a Federico II noi abbiamo il rapporto con gli uomini che sono venuti via dalla Provenza, io penso che si possa più sicuramente parlare di rapporto col mondo provenzale. Tanto è vero che questo rapporto provenzale è, come dire, favorito rispetto al rapporto col mondo francese. Noi abbiamo, dicevamo, due correnti. Ebbene, quella francese ha dato luogo a una letteratura, la letteratura franco-veneta, ma non ha dato luogo ad una complessità, una scuola, chiamiamola un po' così, come si suol dire, ad una crescita poesia, come invece ha dato luogo Federico alla corte di Federico II. Perché? Perché questo mondo di poeti ha trovato in Federico II un punto di riferimento, vorrei dire, attivo e passivo, cioè di persona a cui rivolgersi e persona dalla quale essere appoggiati. Lei domani si dirà certamente, ed è un altro aspetto della medaglia, lei ci dirà certamente che Walter von der Vogelweide, dopo di aver atteso il feudo, il piccolo feudo, ma non si sa più quanti signori, alla fine lo tiene da Federico. Oh, finalmente il mio feudo me l'ha dato l'imperatore. È questo che io volevo in un certo senso chiarire, e cioè il rapporto vivo di questa personalità di sovrano con il mondo letterario. Io mi sono limitato alla Sicilia e all'Italia, perché io devo parlare di questo, ma c'è un rapporto di una personalità che sente viva la relazione con una civiltà che non è a pezzi, ma globale. Questo è per me l'aspetto impressionante. Nel caso specifico, quando Federico II e coloro che gli sono intorno debbono parlare del mondo letterario, viene fuori il mondo letterario provenzale. Attenti, da cui prendono alcune forme poetiche, la concezione dell'amore, alcuni mezzi espressivi, ma in cui c'è il grande tentativo della elaborazione dei linguaggi, che è per me, da un punto di vista storico, il fatto che mi fa più impressione. Questo come per sottolineare l'importanza del mondo provenzale. Non sono affatto, anzi, la ringrazio di avere aggiunto, questo punto siamo d'accordo, di avere aggiunto che in quella stausice tradizione di cui si è parlato anche stamattina, uno degli elementi era l'elemento della cultura letteraria. Giustamente dovremmo allora, da qui stiamo parlando di svevi, ricordare che l'ultimo degli svevi, Corradino, poeta un'altra volta in Hofneutsch. Che cosa succede? E questo è interessante, forse, ma dico forse, per la lingua, come dire, di nascita, la lingua iniziale di Federico II. Come Corradino, che è stato educato in Baviera, poeta personalmente in Mittelhochdeutsch, così è possibile ma non oso dire più che una probabilità che la lingua iniziale, non possiamo dire muta perché non c'era una muta, ma la lingua iniziale di Federico II è probabilmente il siciliano, perché è la lingua di cui si serve poeticamente. Ma un siciliano, ed è qui un sovrano, un siciliano che però vuole una lingua che non è il dialetto del suo popolo, ma invece questa, vogliamo dire, questa lingua di elite. Quindi su questo punto la ringrazio perché contribuisce a chiarire la complessità di una tradizione culturale che si affianca alla tradizione familiare e dinastica. Dann glaube ich auch, dass eine bestimmte soziologische Verschiedenheit zwischen der provenzalischen Dichtung und der sizilianischen Dichterschule besteht. Wir haben in der provenzalischen Überlieferung gar nicht so häufig, gar nicht so selten den Beruf, den Dichter, der seine literarische Aufgabe zu seinem Beruf macht. Und das ist eine Erscheinung, die ja in der sizilianischen Schule nicht in dieser Weise auftritt, sondern das sind jetzt die Familiares des Kaisers, die an dieser Dichtung teilhaben, unabhängig von ihrer ständischen Gliederung. Das sind sowohl die Adligen, wie etwa den Grafen von Agrigio, wie auch die Bürger, Notare und Juristen, die daran teilhaben. Entscheidend ist die Zugehörigkeit zur Familie, zum Hof des Kaisers und nicht etwa die Einrichtung in einen bestimmten Stand. Sehr erfreulich, dass Sie hingewiesen haben auf Konrad, der ja diese Sprache der Religion vorgibt.